Se, Palladino in 6-6, numero 9, la traccia estiva, raga. E lo sai che andiamo e lo spingiamo tutti quanti. Siamo quelli con lavoretti da tabacchi, vino e da qui. Vogliamo musica che spacchi. Radio XXX, bella riviera, siamo in tanti. Siamo sottovalutati come la municipale. Voi sopravvalutati come l'Italia al mondiale. Io il fine settimana credo di saper volare. C'ho la scimmia sulla spalla e la domenica sta male. E spesso in giro a Chiavari mi chiedo cosa faccio. Giro senza freni, qualche volta poi mi ammazzo. Le telecamere che osservano io me ne batto il cazzo. Sorrido così vengo meglio quando passo. E l'estate, il sole, le notti a cercare donne sole, il sale il suo sapore sempre con le nuove stole. Le serate che poi ci rimani un po' col muso, due negroni dallo blocco e poi corri spiaggia nudo, perché a prenderci bene non ci basta proprio poco. Combino casino e abbiamo il fuoco. Radio XXX che fuori esce dagli schemi, abbiamo tanti problemi ma almeno non siamo a semi. Ci pensate voi a tirarmi fuori di qua? Sai che andiamo e lo spingiamo tutti quanti. Siamo quelli con lavoretti da tabacchi, vino e da qui. Vogliamo musica che spacchi. Radio XXX, dalla riviera siamo in tanti. A mezzogiorno rimbecillito, quando ieri fighetto in infradito. In giro a giri di Moretti e Mojito, cacciato per colpa di uno stronzo di Ciupito. Sfigato, altro giro, altro regalo. Se lì nei pedali, stacco al bar e ci vediamo. Venitemi a prendere che prima di scendere faccio su. Salite su, so che non vi spiace attendere. Così poi succede che ci tiri il culo e fai dire te radio in linea. Non c'è nessuno che c'è di figo in periferia. Se la serata è figa, è figa la compagnia. E la mia è una bomba. E domani a mezzogiorno il cranio rimbomba. Ci pensate voi a tirarmi fuori di qua? Sai che andiamo e lo spingiamo tutti quanti. Siamo quelli con lavoretti da tabacchi, vino e da più. Vogliamo musica che spacchi. Radio XXX, dalla riviera siamo in tanti. Così poi succede che ci ti il culo e fai dire te radio in linea. Non c'è nessuno. XXX numero 9, Pino che gli è binario. Bella da P, l'uomo con la moretti dal tabacchi. Bella raga, buttatemi fuori di casa. Ci pensate voi a tirarmi fuori di qua? Fuori di qua, fuori di qua, fuori di qua, si va, non si va. E lo sai che andiamo e lo spingiamo tutti quanti. Siamo quelli con lavoretti dal tabacchi, vino e da P. Vogliamo musica che spacchi. Radio XXX, dalla riviera siamo in tanti.